dai luoghi comuni di Riccardo Poli, Alessandro Longoni e Beppe Salmetti. Basta ragazzi, basta. Allora, noi oggi, io ve lo dico, noi oggi chiudiamo questa trasmissione. Questa trasmissione sarà la seconda trasmissione che chiude, in cui i conduttori vogliono che chiuda. Prima c'è la zanzara, no. Poi veniamo noi. Noi chiudiamo oggi questa trasmissione, deve finire. Ma perché? Deve finire, deve chiudere, basta. Noi facciamo show ragazzi, facciamo qualcosa che sia simile allo show? Sì, abbastanza. Facciamo qualcosa che sia simile allo spettacolo? Sì. Non esageriamo, però. Perfetto, e allora chiudiamo. Chiudiamo perché non ci vuole nessuno, non gliene frega un cazzo nessuno. Basta, non interessa questa cosa al popolo. Il popolo ha altre necessità. Quindi noi adesso chiudiamo. Basta, arrivederci. Quali necessità? Ma di cosa stai parlando, Beppe? Scusa, io ti giuro che non sto capendo. Allora, abbiamo fatto un sondaggio qualche giorno fa? Sì, è vero. Abbiamo fatto un sondaggio in cui abbiamo chiesto. Cosa abbiamo chiesto, Alessandro? Allora, abbiamo fatto un sondaggio ai nostri ascoltatori. L'abbiamo fatto sia sul nostro canale Telegram, Off Topic trattino Radio 24, oppure l'abbiamo fatto anche su Instagram. E la domanda che abbiamo fatto è stata questa. Era una domanda un po' difficile, un po' estrema, un po' aggressiva, un po' la Black Mirror per chi conosce la serie TV. Allora, se foste obbligati a scegliere, a quale di queste arti sareste disposti a rinunciare per sempre? Per sempre. Abbiamo messo 4 scelte: cinema, teatro, musica e letteratura. Allora, vuoi qualche numero? Volete qualche numero da Instagram? Va bene, dacci i numeri. Musica, tipo il 2%. 2% lascerebbe la musica. Poi a un certo punto arriva la letteratura con un 10-15% circa, perché ho davanti due classifiche, sia quella di Telegram sia quella di Instagram. Sto cercando di mettere insieme i numeri. Stai facendo un'operazione mentale difficilissima, insomma. Bravissimo. Un incrocio dati. Poi arriva il cinema con un 25-30%. Nella stragrande maggioranza dei casi la gente è disposta a cancellare il teatro. E allora noi cancelliamo il teatro però da tutto. Siccome il teatro è qualsiasi... Cioè, allora, quando un uomo incontra un altro, non mi ricordo chi dice questa cosa, gli racconta una storia, quello che è successo prima è teatro. Quindi da oggi in poi, se un uomo incontra un altro, non può più fare teatro, non gli può più raccontare un cazzo, deve scrivere un romanzo. Scusami, vuoi dire che al bar quindi io non posso più raccontare nulla? Sì, semplicemente Ale, da domani tu vai dalla fornaia e ci racconti, ci torni con un romanzo, va bene? Ci scrivi un romanzo in cui ci racconti che sei stato dalla fornaia, un interessantissimo romanzo in cui Alessandro Longoni va dalla fornaia. No, perché allora stiamo facendo tutta questa pappardella perché il luogo comune di oggi è: a teatro non ci va più nessuno. Tra l'altro Beppe l'ha presa proprio leggera, cioè non se l'è presa sul personale. Beppe si è un po' incazzato perché lo diciamo, lo fa di mestiere, è un attore teatrale oltre che essere un attore tout court, diciamo, e abbiamo deciso di fare questo luogo comune perché effettivamente abbiamo l'impressione, al di là di questo periodo di Covid che sappiamo, tutto lockdown eccetera, però proviamo a tornare nel pre-Covid, nel momento pre-Covid. L'impressione che abbiamo avuto è che tendenzialmente tra andare al cinema, guardare una serie su Netflix, andare a un concerto, andare a teatro, pochissima gente ha la tendenza ad andare a teatro. È vero? Non è vero? Io sinceramente mi metto... Ma tu vai a teatro? Io vado pochissimo, sono andato pochissimo a teatro. Sì, devo ammetterlo anch'io, sì. Io Beppe al massimo sono venuto a vedere le tue cose, qualche cosa di Goldoni nel teatro veneto, veneziano, quindi proprio... Che non c'entra un cazzo uno con l'altro. Esatto, proprio due mondi diversi. Cioè, quindi voi mi state dicendo velatamente che non avete mai visto, che ne so, Bergonzoni? No, Bergonzoni l'ho visto. Io no. Tu Ale non hai mai visto Bergonzoni? Io no, non l'ho mai visto. Cioè voi non avete mai visto De Florian Tagliarini, vi dice nulla? No, nulla, sembra la marca di una tagliatella. Antonio Rezza? Sì, quello ce l'ho. Quello no, ce Antonio l'ho. Rezza non l'ho mai visto. No, scusami, tu Ale non hai mai visto Antonio Rezza? No, non l'ho mai cioè, visto. Cioè, se io ti dico Rezza Mastrella, tu cadi dal pero. Ma no, certo che li conosco, cazzo. Anch'io sono cresciuto davanti alla televisione, però non sono mai andato a vederli in un luogo fisico. Ce li hai visti alla televisione? Antonio, per favore, digli qualcosa, è il tuo momento, digli qualcosa. Ma che devo dire? Mi sembra che il sondaggio rispecchi quello che è successo negli ultimi mesi. Non mi sorprende, insomma. Poi il teatro è una cosa che si fa in diretta, quindi si preferisce l'imbecillità e la differita. È chiaro che un libro può essere più stupido di uno spettacolo teatrale, perché tanto chi lo legge poi sta da solo con chi lo ha scritto, e chi legge scrive solo legge soltanto perché non è capace a scrivere come chi ha scritto. Il cinema è finito non so da quanto tempo, perché se non si trovano le pulsioni per rinnovare un linguaggio. Il teatro, non dico che il teatro sia tutto bello, però non mi sorprende, non è stato educato nessuno ad andare a teatro, neanche io sono andato a teatro. C'erano queste deportazioni al liceo come come durante l'Olocausto si riempivano i pullman per portarti a vedere quello che non volevi vedere, quindi non è una distrazione, volutamente non si è. Poi la cosa però, la maggior parte della responsabilità la addosso agli attori di cinema, quegli attori di cinema che spesso per rifarsi un'immagine, per ripulirsi la facciata da tutte le cagate che fanno al cinema, fanno spettacoli teatrali, perché il teatro, come diceva De Sica, è tecnicamente più difficile del film, che è un artificio di montaggio, e lo diceva anche Kubrick, non vogliamo mettere mica in discussione due geni di questa portata, giusto? Allora, siamo con Antonio Rezza, che è il più grande performer del mondo, fino a prova contraria, per sua definizione, e Flavia Mastrella, artista e scenografa degli spettacoli Rezza Mastrella. Ciao Flavia, ciao Antonio, allora grazie di essere qui con noi, cerchiamo di capire un attimo perché il teatro deve prendere gli schiaffoni dalle altre arti, e lo dico senza malizia, perché davvero lo voglio capire, io che sono un ignorante, nel senso che sono andato poche volte a teatro. Però tu, Antonio, hai detto due cose interessanti. La prima, mi hai ricordato quei tempi del liceo e delle scuole in cui veramente mi caricavano sui pullman e mi portavano, sì, con un'immagine un po' forte, devo dire, cioè il paragone fa cadere un po' dalla serie. È un artista, Antonio, quindi può permettersi di usare tutte le immagini che vuole, certo. E quindi mi hai ricordato quei bei momenti, e soprattutto mi hai fatto venire in mente una domanda: ma non è che il pubblico, e parlo del pubblico italiano, è stato molestato dal teatro in tutte queste decadi, e quindi la gente non ha più voglia semplicemente di andare a teatro perché non si diverte più? La posso cedere a Flavia questa? Sì, volentieri. Certo. Guarda, il problema è che il teatro non è stato possibile rinnovarlo, perché c'è una serie di persone che prende finanziamenti e li usa per vivere e non li usa per la sperimentazione. Se il teatro non racconta il momento storico, non può interessare nessuno. Quindi, Flavia, scusa, mi state dicendo che manca una formazione nel pubblico del teatro, ma manca anche una sperimentazione nel teatro stesso? Cioè, è un doppio problema? Certo. Già da quando abbiamo iniziato noi c'era questo problema. Noi abbiamo dovuto iniziare in posti alternativi, non abbiamo potuto cominciare dal teatro. Non c'era spazio per la novità, non c'era spazio per chi cominciava in quel momento. Adesso le persone, gli attori che iniziano adesso, gli autori, devono pagare il teatro per fare il loro spettacolo. Ma scusate, quindi uso il termine lobby in maniera corretta oppure sbagliata? Non è questione di lobby. Se allora, io pensavo che fosse un'ingiustizia. Allora, io vivo al mare, qui gli ombrelloni sono messi, noi non possiamo ricominciare a fare le prove, e questa apparentemente è un'ingiustizia. Gli ombrelloni, invece che a 2,20 metri come l'anno scorso, ho studiato tecnicamente il fenomeno, sono messi a 3 metri, però questa è una grandissima inesattezza tecnica, perché se tu durante queste, cioè se tu in mezzo a questi 80 centimetri che mi imponi di differenza rispetto all'anno scorso mi ci rimetti le persone, è inutile che tu li metti a 3 metri, perché il virus non si contagia attraverso gli ombrelloni, il virus si contagia, viene contagiato alle persone, quindi noi mettiamo gli ombrelloni a 3 metri e in questi 3 metri ci ficchiamo le persone. Quindi queste inesattezze tecniche che uno dice è un'ingiustizia, io penso che non sia stata nominata la cultura in generale, non per distrazione, ma perché non c'è niente di meglio per screditare la cultura che non nominarla, come diceva Gunther Anders, mi sembra l'autore. Ridicolizzare la cultura significa che per un metalmeccanico, uno scrittore, un autore, un attore, non fa niente. Questa sì, è la percezione. Anche un po' il refrain, Antonio, della politica, no? Vi chiamano professoroni. Sì, ma la gente ha questa percezione di chi si occupa, diciamo, di cultura, per abbreviare, attraverso la dialettica e il linguaggio. La gente ha la percezione che chi fa quello che facciamo noi, per esempio, lo fa perché si diverte, lo fa perché è una persona fortunata. E quale metodo migliore ridicolizzare la cultura per renderla inoffensiva? Questo è stato fatto da questo Stato, e non è un'ingiustizia, è un calcolo, è una missione dello Stato. Qual è la cosa che può, l'unica forma di antagonismo verso la politica è l'arte. Se tu l'arte la ridicolizzi, è chiaro che l'arte ne esce depotenziata e ridicolizzata. Infatti quello che emerge da quello che stai dicendo, Antonio, è che la colpa della politica di aver tralasciato l'arte, di averla tenuta come ultimo elemento da riportare alla normalità, in questa finta normalità come dicevi tu, c'è del dolo in questo, quindi i politici hanno una colpa molto forte. Sì, non è un'ingiustizia, è un calcolo spregevole. Perché qualcuno potrebbe pensare è un'ingiustizia. No, è stato fatto apposta. Perché? Perché è temuta. Perché un certo tipo di cultura è temuta. Mi viene in mente, Antonio, un sondaggio del Daily Mail che abbiamo commentato qualche settimana fa. Un sondaggio ovviamente che non ha nessun tipo di valenza scientifica. Però, sai, quei sondaggi da giornale... Sotto l'ombrellone, esatto, Alessandro. Sotto l'ombrellone, che se sotto l'ombrellone. E lo abbiamo commentato qualche settimana fa sul nostro canale Twitch, che è Off Topic 24. E questo sondaggio diceva: quali sono i lavori di cui potremmo fare a meno, in buona sostanza? La so. C'è il fornaio tra i primi? No. Non c'è il fornaio. C'è un medico? No. Ecco, al primo posto c'era l'artista. A me spiace battere sempre il punto su quello, però mi sembra che davvero ci sia una diffusa consapevolezza e accettazione del fatto che l'artista non serve a un cazzo. Io vorrei chiedere a te come ne veniamo fuori da questa impasse. Ma come ne veniamo fuori? Poveracci loro, perché non sanno cosa si perdono. Io che ti devo dire? Io mi sveglio la mattina e non ho padrone. E adesso lascio anche esprimere Flavia su questo. Cioè, noi siamo fortunati perché facciamo quello che vogliamo. Poveracci quelli che lavorano per chi li paga. Noi non lavoriamo per chi ci paga, noi siamo indipendenti, non prendiamo neanche soldi statali, quindi lo Stato non si è comprato il nostro tipo di teatro, e quindi diciamo con baldanza quello che pensiamo. Quindi poveraccio chi non capisce che cosa è la libertà di alzarsi la mattina e di fare quello che uno vuole. È una libertà che costa molto sacrificio, anche se dà una libidine che nessun rapporto sessuale può garantire. E ho finito. Io dico a queste persone: poveracci. Dal cielo mi cadono le palle, i pantaloni si sono rotti e non ho più il coraggio di guardarti in fondo agli occhi, perché ho paura del tuo amore, è troppo serio e razionale per me, che sono un frocio perso. Dal cielo mi cadono le palle, i pantaloni si sono rotti e non ho più il coraggio di guardarti in fondo agli occhi, perché ho paura del tuo amore, è troppo gonfio per scoppiare per me, che sono, per me che sono un frocio perso. In realtà volevo chiedere una cosa a Flavia, perché forse noi nati negli anni 80 siamo stati un po' violentati dalla televisione, che volevo capire da Flavia se ritiene una forma di teatro. No, assolutamente, la televisione è un organo di Stato, è un organo che serve a influenzare la popolazione. Ma serve a influenzare le masse, quindi dici? Masse, certo. Ma e quindi la TV, non è forse che la TV ha cannibalizzato un po' il pubblico del teatro? No, non c'entra niente, sono due cose diverse. La TV è nata, specialmente in questi, dagli anni tuoi, cioè dall'80, serve a narcotizzare le persone. Come unico scopo? Come unico scopo, sì. Hanno comprato tanti format americani per farci andare verso un certo tipo di consumismo e un certo tipo di superficialità. Ci impongono, ci hanno imposto attraverso la televisione anche i comportamenti fisici, la moda. È una iattura la televisione adesso. E con che approccio l'avete fatta voi quando l'avete fatta la TV? Con libertà, se ce la fanno, esatto, fare. Cioè, quali erano i motori, gli stimoli che vi portavano? Noi volevamo distruggere questo modo di fare. Volevamo dare una forma di contenuto e di energia alla cosa. Abbiamo fatto queste interviste on the road per far vedere quanto la gente fosse influenzata dalla televisione e quanto si può scardinare il sistema facendo qualcosa di creativo. Sì, beh, ci sono tanti esempi di televisioni positive come Ghezzi. Ma certamente, ma io dico soltanto, perché poi io non sono permaloso, però mi dispiace sentire queste cose. Io invito queste persone che pensano che l'arte, è chiaro che ce l'ho anch'io con l'arte, con l'artista, con l'artista prezzolato, con l'artista stipendiato dallo Stato, con colui che aspetta adesso si proverà. Noi non abbiamo neanche il benestare per ricominciare le prove, quindi chi prende contributi ministeriali proverà, quando ci sarà il benestare, il permesso, in 10 giorni, spettacoli per non perdere i finanziamenti. Dopo un anno di virus ci aspetteranno 2 anni di spettacoli brutti, perché non provati. Però io vorrei invitare chi pensa che l'artista sia un lavoro inutile a venire con me, a svegliarsi con me, a vedere come si può vivere in quarantena, quella che è stata definita quarantena, con un cervello autoreggente. Perché io ho visto persone impazzire perché non avevano una padronanza personale della mente, delle loro idee. Io direi a queste persone: conoscete la bellezza di un'idea innovativa? se non la conoscete, non potete esprimervi, non potete parlare. Adesso la lotta non è soltanto contro uno Stato che non riconosce la cultura. La lotta deve essere contro le persone della strada che non sono meno colpevoli, che non riconoscono l'esistenza di chi è diverso. Qui tuteliamo ogni forma di diversità, ma i geni non vengono tutelati da nessuno. Perché non si tutela il genio? Perché non si tutela il genio? Oggi ho letto una cazzata clamorosa sugli scacchi. Per il bianco, sì. Siccome il bianco muove prima, gli scacchi sono razzisti. Cioè, stiamo arrivando a questo sproposito. Ma perché il genio non viene tutelato da nessuno? Dovrebbe esserci un ministero del genio, no? Perché poi viene annichilito anche quello. Certamente, un ministero dell'utopia, dell'illusione. Fantastico. Cioè. Antonio, una cosa su cui abbiamo litigato, e anche Flavia, preparando questa puntata, eravamo indecisi se usare il luogo comune, a teatro non ci va più nessuno, oppure l'Italia potrebbe vivere di cultura, che credo che sia un luogo comune che fa incazzare buona parte della gente che fa cultura in Italia, buona parte che la fa bene. È vero questo luogo comune, l'Italia potrebbe veramente vivere di sola cultura o una puttanata sesquipedale? Beh, la cultura sarebbe quella dei spaghetti, della mafia, la solita. No, parlavamo di quadri in realtà, tipo di, non so, Raffaello, siti archeologici. Sì, però io non la vedo sta soluzione, anche perché sta andando tutto in malora. Beh, la prospettiva è decisamente realistica. Ma un paese che vive sulle opere dei morti, perché noi il primo indotto economico mi sembra sì. In Italia sia il turismo. Un paese che vive sulle opere dei morti manca di rispetto così ai vivi che fanno arte, che fanno cultura, che saranno i morti del domani. Cioè, è chiaro che si vive di cultura, l'Italia vive su quello. Come si può screditare così tanto di fronte al mondo? Perché nessuna nazione penso si sia comportata in modo così codardo, con calcolo nei confronti di chi vive delle proprie idee. Io mi sento offeso non come categoria. Qui non si cerca di creare un movimento. A me non me ne frega niente del movimento. Io mi sento offeso come individuo individualista, come individuo individualista che vive delle proprie idee. Come persona. Perché l'artista poi diventa all'improvviso un terrorista. Uno Ma che per... fa un'operazione di disturbo. Ma perché pensate che veramente a questo punto mi viene da chiedere, scusate, forse è una domanda banale, però voi avete parlato giustamente del ruolo dell'arte, dell'artista come di colui che deve minare le certezze della politica o comunque dello status quo, in qualche modo deve far traballare il tavolo. Esiste ancora questa funzione in Italia a parte voi? C'è qualcun altro che può farlo? Ma mica deve farlo apposta. No. Non deve certo. farlo con calcolo, lo deve fare perché gli esce spontaneo. Non è che uno può dire oggi mino le certezze dello Stato. Ma che me ne frega, io non lo vedo proprio lo Stato. Io il potere non lo riconosco nella sua esternazione. Quindi se viene spontaneo va bene. Qualsiasi forma di dirompenza spontanea è di alto livello. Tutto ciò che è calcolo mi dispiace, ma non ambisce a quello. Dico, esiste una nuova drammaturgia, ma non riescono a portarla avanti, appunto perché nessuno se li fila. Infatti su questo volevo andare, cioè noi abbiamo chiamato voi anche perché voi ad oggi siete uno degli esempi migliori del teatro in Italia, cioè rispetto al numero. Cioè noi partiamo dal luogo comune che è a teatro non ci va più nessuno e voi riempite le sale, no? Insieme a voi però riempiono le sale anche altre figure. Beh, Bergonzoni riempie le sale, è una persona che noi stimiamo tantissimo perché ragiona come noi, fa quello che gli va a lui, non quello che gli va agli altri. Certo, però vorrei proporti un altro punto di vista che è in Italia chi riempie? Riempiono molto spesso anche i comici televisivi, anche i narratori. Aspetta che sento tipo c'è un aereo, ma... Bellissimo. Magari speravo bombardasse. Ho sperato fino all'ultimo che bombardasse, quindi non siamo abbastanza nocivi se non ci bombarda. Esatto. Ah, dici che stanno ascoltando con i microfoni la trasmissione. Sarebbe una morte attaccare. Sublime, insomma, bombardati, no? Fantastico. Beppe, stavi dicendo, scusa? Sì, no, ti stavo chiedendo cosa ne pensi dei comici che a un certo punto mollano la comicità televisiva e se ne vanno in teatro. Comunque anche quelli riempiono, quelli in realtà fanno un favore all'indotto oppure no? No. Ma ci vanno per poco tempo, sono fenomeni di una stagione, io non li vedo così. Ma non è quello, insomma, adesso vedere, non vediamo un nemico nei comici che passano dalla televisione al teatro, assolutamente. Discipline diverse, non lo so, non reggono molto bene tanti, cioè non reggono lo spazio, non reggono la folla. Mi sembra di capire che voi, più che dare la colpa ad un pubblico che non sa scegliere i prodotti giusti, state un po' puntando il dito a, contro uno Stato appunto che non fa quello che dovrebbe fare, difendere e promuovere le idee nuove, le idee non geniali. Lo può fare perché non lo sa fare, è inabile a farlo. Tanto che ho sentito una tua protesta nelle ultime settimane in cui dici: artisti, fermiamoci, non facciamo più nulla e rifiutiamoci di fare degli spettacoli, in questo caso teatrali, con un pubblico che appunto vede uno seduto e due sedie vuote. Certamente. Perché questa proposta radicale da parte tua? Ma perché sarebbero degli ospedali da campo. Il teatro non è solo economia, è anche emozione. Se qualcuno sapesse come mi emoziono io quando sto su un palco, capirebbe benissimo perché non posso rinunciare all'emozione di vedere le persone vicine. C'è un calo di energia. Chi conosce energia sa che se tu metti il vuoto in mezzo al pieno, lì hai delle depressioni. E io non voglio vivere in questa dimensione. Poi se tu sarebbe un po' come fare la doccia con l'impermeabile, cioè non ha senso. Beh, non l'ho mai provarla, può darsi, però, proverò e ti dico, provo però, e ti dico. Sai, Alessandro, una cosa, è vero quello che dice Antonio, perché io uno degli spettacoli che ho visto di Antonio e Flavia è Fratto X. E a un certo punto ero tra il pubblico, era la prima volta che vedevo Rezza e l'ho visto salire sul palco e mi ha dato un senso di nervosismo estremo, tanto che sarei salito sul palco e l'avrei menato, te lo dico, Antonio. Ma ti riferisci, scusami, al momento in cui lui tipo per 7 minuti continua a dire Mario? Ad esempio, solo che la cosa bella è che il mio fastidio nei confronti di Rezza era aumentato dal fatto che intorno avevo gente che rideva. E io ero frustrato dal fatto che non capivo perché gli altri ridevano, e a me l'effetto di Antonio era invece tutt'altro, quello di menarlo. Avevo voglia di menarlo, quindi effettivamente io che sono andato... Ti ha causato un'emozione, però, vedi? Esatto. Il teatro ha creato in te un'emozione. Esatto, cioè senza pubblico o con un pubblico decurtato non funziona il teatro, e me ne rendo conto io che non ci sono quasi mai andato, giusto Antonio? Ma certamente, ecco perché noi non vogliamo, cioè, io voglio dire un'altra cosa molto grave che si è verificata: lo Stato ha deciso come i personaggi devono stare sul palco, cioè si devono girare dall'altra parte se parlano, a quanta distanza, cioè lo Stato finalmente diventa drammaturgo, lo Stato diventa Ronconi, dopo aver immobilizzato la cultura con i soldi, adesso detta anche le regole di scena. Io non accetto questo perché io non faccio leggi di bilancio. Un artista non può accettare le direttive sceniche di uno Stato che non ha la competenza per pensare alla drammaturgia. Tutto qua, questo è un altro abuso. No, ma poi scusami, cioè i calciatori in questi giorni stiamo vedendo le partite in cui si abbracciano, appunto, fanno, cioè si abbracciano, appunto, no, però appunto vanno attorno all'arbitro, tutti sudati, con le goccioline, e quindi ci sono, certo, due sport e due regolamenti diversi. Posso chiedere una cosa proprio emotiva a Flavia e poi ad Antonio? Quanto vi manca oggettivamente il teatro? Voi che ci siete nati, cresciuti, l'avete mangiato in ogni forma. Adesso come vi sentite? Non è bello, perché manca appunto quello scambio di energia e quella... diciamo che io mi appago a vedere le persone che riescono a capire il nostro linguaggio, perché il nostro linguaggio è un linguaggio contemporaneo che parla con la visione, parla con l'energia, parla con la voce d'Antonio. E questo ti manca molto, perché da quello io prendo la carica per fare altre cose, per andare avanti, e Antonio lo vive diversamente, però per me è importante perché mi dà la spinta per andare avanti. Antonio? A me manca il teatro come manca, cioè, come può mancare il corpo, e io vivo di quell'emozione, è chiaro che mi manca. Però insomma, torno a ripetere, in questi 4 mesi mi dispiace per le persone che sono morte, che sono state male, io sono riuscito a fare tantissime cose da solo. Quindi io penso, guarda, uno Stato razionale, ragionevole, dovrebbe imporre ogni anno 4 mesi di solitudine a ogni essere umano. Questo è bello. Per costringerlo alla resa dei conti. Questo è bellissimo. E non soltanto attraverso l'intimidazione. Che poi è piacevole stare con sé, no? Perché se stai bene con te, stai bene. Stai bene in generale. E invece questa cosa, come dire, fuggiamo tutti da, no, vogliamo andare all'aperitivo, vogliamo andare. Però venissero a vedere quelli che pensano dell'artista, e io mi riferisco a me, o posso pensare a Flavia al massimo, o a chi stimo, che l'artista sia qualche cosa che può essere inutile. Venissero, chiudiamo con questo invito, venissero con noi e così facciamo vedere come si vive bene senza padrone. però a teatri pieni, quindi nell'attesa di avere di nuovo teatri aperti e perfettamente funzionanti. Intanto ringraziamo Antonio Rezza e Flavia Mastrella che sono stati con noi off topic, grazie mille ragazzi. Possiamo dire una cosa in finale, che possiamo certo. dire, perché noi andremo sul palco quest'estate con l'auspicio che poi d'inverno si possa entrare attaccati, quindi questi sono spettacoli di buon auspicio che facciamo. Inizieremo il 13 da Villa Franca a Verona con Fratto X all'interno della Milanesiana e poi faremo altre cose in Italia per augurarci che da ottobre si possa entrare tutti attaccati e senza limitazioni. Se mai ci rivedremo, Antonio, ti abbraccerò, non ti menerò, lo giuro. Ci tocchiamo. Sì, ci tocchiamo, ma non ti meno, perché dopo, sai, l'effetto di Fratto X mi ha dato questa piccola problema mentale. Beh, oggi fare a botte è perseguibile, perché non ti puoi toccare. Esatto, è vero, c'è anche quello. Va bene, allora ricordiamo tutti i nostri contatti, Ale, per mettersi in contatto appunto con Off Topic. Sì, ci trovate su Instagram, Off Topic 24, potete riascoltare tutte le nostre puntate con tutti i luoghi comuni che abbiamo fatto su tutte le piattaforme podcast, specialmente Spotify, iTunes, Google Podcast o nel dubbio andate sul sito di Radio 24 e trovate tutto quanto. Per chi di voi avesse Telegram, abbiamo anche un gruppo di discussione in cui potete entrare e fare due chiacchiere con noi. Dai, che poi litighiamo dentro il gruppo, ragazzi, entrate che tutti i giorni ci prendiamo sportellate. No, in realtà guarda, mi dai l'occasione per dire questa cosa, vogliamo fare un internet diverso, sì. Cioè in cui non necessariamente si deve litigare, smettila, per sentenza. Ma stai zitto, devi stare zitto. Calma. Off topic trattino radio 24 ci trovate su Telegram e poi siamo anche su Twitch con il canale Off Topic 24, direi che è un po'. Sì, ragazzi, per chiudere vorrei chiedere ad Antonio di completare questa mia frase, gli riuscirà ovviamente bene. Ricordiamo a tutti gli ascoltatori che la spensieratezza va stroncata alla nascita, certo. Grazie Antonio. Grazie ciao. Flavia. Ciao. Grazie ciao. A tutti, grazie a voi. Off Topic. Fuori dai luoghi comuni. Produzione a cura di Andrea Roccabella.